Con Laura Tornambene, autrice e regista dello spettacolo L'ultimo nessuno del progetto Ulisse, in prima nazionale a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 14 giugno 2019. Laura, ben trovata. Grazie, grazie anche per l'accoglienza. Sì, il progetto Ulisse è il nome di tutto il collettivo, perché io sono la regista, ma in realtà il progetto alla base è quello che ognuno in ogni suo ruolo, tecnico, attore, cantante, perché il progetto nasce insieme a Kento, rapper e attivista, e poi coinvolge Giovanni Arezzo Soulchair, anche lui come cantatore, e Noemi Cardinato come cantatrice. E poi appunto abbiamo anche le proiezioni curate da Emanuele Foti, e ciascuno di noi all'opera in questo progetto ha la stessa possibilità di poter esprimere il proprio punto di vista su tutta la storia, perché vorremmo anche dimostrare, portando in scena uno spettacolo che spero piaccia, che si può anche lavorare nel rispetto dei ruoli, ma con una struttura orizzontale, non verticale, così almeno ci si può guardare tutti in faccia. Anche Sì. per il centro del nostro spettacolo, l'idea di riconoscerci con tutti quanti, come fratelli, orfani cosmici, al di là di qualsiasi divisione, di qualsiasi tipo. Ci racconti l'origine del collettivo Progetto Ulisse? Appunto, come ti dicevo, l'idea originaria è nata insieme a Kento. Si sono solo cercate da lì in poi le persone che per natura, per storia, per amicizia, per legame, fosse unita a questa opera dalla figura di Ulisse. Quindi Giovanni mi ha fatto conoscere Kento, abbiamo avuto quest'idea, da lì io ho chiamato le mie sorelle, i miei fratelli Lezione, Noemi, ed Emanuele, da lì si sono unite anche altre persone, c'è il musicista Simone Squillace, e quello ovviamente è stato portato da Kento, che ha fatto tutte le musiche originali, anche perché questo spettacolo osa presentarsi come il primo musical rap italiano. Quindi è stato veramente tutto un passaparola sulla base di idee in comune e di passioni, cosa ancora più importante. Quante persone fanno parte del collettivo? Di base io, Kento, Giovanni, Noemi, Emanuele che fa le proiezioni, Simone che ha curato tutte le musiche, poi abbiamo anche registrazioni e quindi avremo anche Alessia Burieri, ma fondamentalmente il collettivo è questo. Più aiuti esterni di altre persone che si sono uniti per darci una mano, e sempre chiamati a tramite connessioni già che conoscevamo nostre. In cosa consiste lo spettacolo? Con lo scopo di recuperare il mito antico, proprio quello omerico per eccellenza, di Ulisse, il senso dello spettacolo è proprio quello del viaggio, ma prima di tutto dentro se stessi. E quindi per far questo, per traghettare l'opera, dobbiamo anche tradirla, proprio nel suo senso etimologico, per poterla portare e farla parlare ai giorni nostri. E così, nel rispetto di tutte le stazioni della storia omerica, il giovane Ulisse, un giovane poliziotto che crede davvero nella legge, ma purtroppo gli vogliono insabbiare il caso, e allora una crisi, scappa da un mondo che non riconosce più come suo, ritorna alle radici per ritrovare se stesso, e lì incontra i suoi vecchi amici di quartiere, Kento che rappresenterà appunto questa figura di professore di vecchio stampo, di sinistra se in qualche modo, ma assolutamente attinente al sociale, la sorella Nika, che invece rappresenta il terzo polo tra appunto l'immagine speculare e anche ideologica che rappresentano il giovane Ulisse e Pino. E Nika al centro invece si pone come un richiamo a superare qualsiasi divisione in nome di necessità comuni che sono le stesse 4-5 della notte dei tempi. Come per citare appunto Emanuele, dovremmo smettere di dibatterci se gioca meglio il Milan o l'Inter e forse tornare semplicemente a parlare di calcio per il bene di tutti. Ecco, rispetto al testo di Omero, su cosa avete voluto centrare l'attenzione? ma in realtà non esiste nessun rispetto al testo, anzi abbiamo scelto proprio Omero perché ci è sembrato perfettamente attinente con i tempi barbari che viviamo. Viviamo in un'epoca in cui i lotofagi, i mangiatori di loto, oppiacei chiaramente, ti addormentano per non farti pensare, in cui le nuove circi che rappresentano le seduzioni dei compromessi in generale, qui sarà una manager che appunto vuole giusto correggere dei testi per renderli più appetibili, è proprio appunto richiama il mondo barbarico. Non c'è nessun rispetto a, è solo la speranza, è solo quella che sia parlata in un linguaggio che tutti possono seguire, ma Omero e il viaggio di Ulisse non hanno veramente perso nulla del loro smalto come significato simbolico. Oh, lo spettacolo è inserito in un progetto più complessivo che è quello di Contrabbando. Sì, che è quello del Contrabbando, appunto il nuovo Cinema Palazzo, questo teatro occupato, che ha offerto la possibilità di un palco per mettere in scena drammaturgie contemporanee, anche perché appunto proprio perché questo paese è un po' complicato rispetto a libertà d'espressione, non necessariamente per censura, ma perché magari si insegue un gusto, come dire, più accomodante verso il pubblico, e quindi è bello avere invece un posto in cui sei libero di esprimersi anche sbagliando, ma io credo che sia proprio attraverso gli sbagli, che non feriscano nessun altro però, solo personali, che a poco può emergere la strada giusta, quindi ben vengano possibilità del genere, soprattutto tenute su da gente che non è pagata, lo fa perché sente una necessità di dare un cuore al proprio quartiere che magari sta un attimo vivendo tempi tristi come tutti. Dopo questa prima nazionale cosa sarà dello spettacolo? Noi già siamo in contatto con festival, ad esempio ci sono molti circuiti del mito in giro per il paese, ci stiamo già muovendo per portarlo in altri posti, poi già c'è gente interessata a prossime repliche, quindi sull'onda di questo speriamo poi di farlo girare il prima possibile, perché prima di tutto nasce da una necessità interiore di dare una bocca a un grido che credo sia comune a tutta l'umanità. In chiusura ci lasci anche dei riferimenti web per saperne di più? C'è già la pagina Facebook del Nuovo Cinema Palazzo dove c'è l'evento e poi basta cercare sul web, già siamo comparsi presso varie agenzie di comunicazione, Mr. Google ci salverà. Allora ricordiamo la prima nazionale dello spettacolo L'Ultimo Nessuno del progetto Ulisse. A Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 14 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e regista Laura Tornambene. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo! Arrivederci!